Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana e allora i temi di questa giornata economico-finanziaria, le borse, ma non solo, perché resta sulla sfondo il tema della italianità, o meglio della campagna di Francia. E qui parliamoci chiaro, abbiamo detto ai tempi in cui si parlava di banche in mano agli stranieri, ricorderete il governatore della Banca d'Italia era Fazio, che il principio dell'italianità non aveva senso in un'Europa unita dall'euro, che i capitali dovevano circolare. Adesso però le cose sembrano essere cambiate, nel senso che la campagna di Francia è una campagna che vede già una forte presenza transalpina in Italia, che vede in gioco il tema che ha sviluppi poi paralleli in realtà di Fondiaria SAI. Se non ci fosse stato l'intervento della Consob, possiamo dire tranquillamente che Groupama, la compagnia assicurativa francese Groupama, sarebbe già entrata con il 17% dentro Prema Fine, quindi nella società che controlla Fondiaria SAI. E poi l'ultimo sviluppo, quello della settimana scorsa, riguarda Parmalat, la scalata compiuta da Lactalis, che è diventata di fatto uno dei soci di riferimento di Parmalat e punta ad ottenere il controllo della Parmalat stessa. Le dichiarazioni nel fine settimana del ministro Romani, ma anche e soprattutto del ministro Tremonti da Cernobbio, ne parleremo in apertura e poi alle 18.15 per sentire due aspetti, due opinioni forse anche leggermente diverse. Detto ciò, il tema resta, ossia in un'Europa, in cui i capitali circolano liberamente, ha senso parlare di italianità e soprattutto è, tra virgolette, colpa dei francesi se gli italiani non riescono a mettersi d'accordo, un po' come nelle guerre rinascimentali o post-rinascimentali, l'un contro l'altro armati fanno arrivare gli stranieri in soccorso del paese. Di questo tema abbiamo parlato già con il numero uno di Bulgari, Trapani, che ci disse, insomma, prima di vendere o di far entrare Bulgari nel colosso del lusso francese Louis Vuitton, Moët & Hennessy, io ho cercato per diversi anni di creare il polo italiano del lusso. Il problema è stato che nessuno voleva rinunciare al controllo e quindi, come i polli di Renzo, mentre si discute, arriva qualcun altro. E ripeto, è un problema oppure in realtà accettiamo il fatto che se gli italiani non hanno le forze o la volontà di creare poli più grandi, vi sarà inesorabilmente l'ingresso di altri soggetti, a partire dai francesi, anche quando sono società partecipate, anche quando sono società che non pubblicano, come nel caso di Lactalis, un bilancio, non rendono pubblico un bilancio dal 2001. 349-238-6666 per intervenire su questo tema e non solo. I mercati come vanno? Più 1,3% Milano, più 2,1% Francoforte, più 2,2% Parigi, Londra più 1,20, Tokyo era chiusa oggi, per cui attenzione. E ancora, per quello che riguarda l'America, siamo all'1,6% sul Dow Jones. L'euro sul dollaro si sta rafforzando quasi a quota 1,42, 1,41,90. Chi va bene oggi in borsa? Intesa San Paolo più 3,1, Buzzi Unicem più 2,5 come ST Microelectronics, il 2,3 lo guadagna Todds e anche Mediolanum, il 2,2 Atlantia e anche Mediaset, il 2,1% Azimut, il 2% Popolare di Milano e Telecom Italia, il 2% anche Pirelli e Unicredit, ma anche Exor. Autogrill più 1,80% come Mediobanca, e invece Ansaldo STS guadagna l'1,6% come Luxottica, Prismian ed Enel. Fronte opposto, chi perde molto? Parmalat, meno 5,6%, ne discuteremo, qui c'è la vicenda francese anche in Parmalat, abbiamo detto, e Fondiaria SAI, meno 4,40%. Campari perde lo 0,90% nel giorno in cui annuncia i dati, utile in crescita del 15%, avremo in collegamento il numero uno di Campari. Campari è un colosso nel settore appunto delle bevande alcoliche a livello mondiale, ha il 51% italiano, la famiglia Garavoglia, ha un fondo straniero dentro, è britannico, e sarà anche l'occasione per capire che cosa ne pensa chi gestisce un gruppo assolutamente internazionale, un marchio che dentro ha non solo Campari ma tantissimi altri nomi, delle operazioni a cui stiamo assistendo. Ancora per quello che riguarda l'oro, volete già sapere come va l'oro, è in rialzo, 1429,6 dollari l'oncia. Subito le notizie in breve. Effetto Libia? Beh, l'effetto Libia per ora si vede e si sente solo sul petrolio, è ancora in rialzo a 102,9 dollari a New York. Il Brent ha segnato un rialzo del 2% a Londra, toccando i 116 dollari al barile. Il diesel, quindi veniamo agli effetti su benzina e diesel, il diesel si è avvicinato in Italia a quota 1,5 euro al litro. Si va da 1,455 euro nelle stazioni Esso a 1,470 negli impianti Eni. L'enologo invece sono a 1,385 euro. La benzina sta dall'euro 558 degli impianti Esso a 1,568 euro di Tamoil. E sono ore di tensione per i dipendenti della Tamoil, che è la compagnia petrolifera libica che in Italia controlla da sola l'8% del mercato e dei carburanti e dà lavoro a 600 dipendenti. Infatti, attraverso una società olandese, la Tamoil fa capo alla Libya National Oil Corporation, che è stata inserita dall'ONU nella lista nera delle società che forniscono introiti al regime di Gheddafi. Potrebbe scattare il blocco delle attività Tamoil, che coinvolgerebbe anche gli stabilimenti italiani del gruppo. Il nucleare, quindi il fronte derivante dal disastro che è successo in Giappone, è innegabile, lo dico senza giudizio di valore, ma è innegabile che il governo abbia cambiato leggermente rotta. Dopo la prima dichiarazione del ministro Prestigiacomo a disastro in corso, il governo manterrà la sua politica, poi un po' di, avete visto anche le indiscrezioni delle agenzie nel fine settimana, i timori della ricaduta elettorale di un governo che va e tira dritto sul nucleare, e attenzione, valuteremo, manteniamo fede al programma, ma guarderemo con attenzione. Adesso il ministro Paolo Romani ha detto che gli stress test europei verranno fatti entro il 2011. La posizione del governo italiano è quella di sottoscrivere ciò che ha detto oggi il commissario Oettinger, cioè ricerca dei parametri, dei requisiti di sicurezza al massimo livello possibile, soprattutto per quanto riguarda le centrali di prima generazione che possono essere presenti in Europa. Di fronte a un evento assolutamente irripetibile come quello giapponese, però noi dobbiamo prevedere per l'Europa altri eventi assolutamente irripetibili e dobbiamo essere sicuri, e dovrà dirci un organismo internazionale condiviso da tutti i paesi europei, che la certificazione di sicurezza delle centrali europee sia tale da rassicurare tutti i cittadini europei. Noi abbiamo chiesto che questo avvenisse, ma i grandi paesi e il commissario sono d'accordo, entro il 2011, mi auguro abbastanza prima della fine di quest'anno. A referendum non so se faremo in tempo a dare le informazioni che ci aspettiamo, ma cercheremo di fare in modo che i cittadini italiani siano informati al massimo livello possibile delle risultanze di questa ricerca, che sarà fatta comunque a livello europeo e condivisa da tutti i paesi europei. Ancora sul fronte giapponese, questa volta Giappone. Secondo la Banca Mondiale, gli effetti del sisma e dello tsunami in Giappone costeranno il 4% del PIL al Giappone, si calcolano in 235 miliardi di dollari, stiamo parlando di circa 165 miliardi di euro il costo dell'economia giapponese, appunto il 4% del PIL. Però la stessa Banca Mondiale fa notare che la ricostruzione potrebbe anche agevolare una rapida ripresa dell'economia giapponese, quindi anche un aumento del PIL stesso. Moody's nel frattempo ha aumentato il suo pessimismo sul Giappone, ha detto che sale il rischio paese dopo la crisi nucleare, e l'agenzia di rating si dice infatti più pessimista nella valutazione dei danni, e il guru degli investitori mondiali, Warren Buffett, ha detto Io non ho nessuna intenzione di vendere titoli giapponesi, non vedo alcun ostacolo per il futuro dell'economia giapponese come conseguenza del sisma. Lo ha detto tra l'altro in Corea del Sud, dove era arrivato senza passare come previsto in precedenza dal Giappone. Anzi, ha detto: io non vendo, il sisma è un'opportunità per comprare. Veniamo all'Europa. Jean-Claude Trichet, presidente della Banca Centrale Europea, ha detto che la Banca Centrale Europea è contraria agli eurobond, ossia a obbligazioni di debito europeo emesse appunto a livello europeo. È un progetto che viene visto con favore anche da Juncker, presidente dell'Eurogruppo, ma soprattutto dal nostro ministro Tremonti, che se ne è fatto portatore. Trichet è contrario. Quello che è necessario fare, ha detto Trichet, occorre fare passi in avanti dal punto di vista della governance collegiale e della supervisione dei bilanci, ma no a emissioni obbligazionarie, quindi a sottoscrizioni di debito a livello europeo. Mario Draghi oggi è intervenuto all'Università Cattolica di Milano e ha ricordato che gli effetti di questa... Mario Draghi è il governatore della Banca d'Italia, chiaramente, e dicevo, ha ricordato che gli effetti di questa crisi non sono destinati a passare in poco tempo, ma dureranno per molti anni. Dall'Unione Europea stanno arrivando risultati incoraggianti, ma non sufficienti. E poi ha detto Draghi: senza l'euro potevamo essere travolti da questa crisi. E attenzione ad aumentare le tasse, perché frenano la crescita, e in questo paese dove l'evasione fiscale è molto forte vanno a vessare, quindi a colpire solo gli onesti. Parleremo anche di Expo oggi, perché continua la polemica, ricordate la nostra polemica col sindaco di Milano, Moratti, si arrabbiò moltissimo per una mia domanda, ma insomma, in effetti mi dispiace dirlo, ma avevamo ragione: nulla di fatto per l'assemblea dei soci dell'Expo 2015, per la ricapitalizzazione non si sono presentati i rappresentanti del Comune di Milano, della Provincia e del Ministero dell'Economia, che complessivamente detengono il 70% del capitale sociale della società dell'Expo. E si è presentato soltanto Paolo Alli per la Regione e Pierandrea Chevelard per la Camera di Commercio. Avremo ospite Paolo Alli, che è sottosegretario alla Regione con delega all'Expo. E, insomma, l'impasse e questo non presentarsi blocca la questione dei terreni. Bisogna comprare questi terreni per l'Expo. Servono i soldi, 1 milione di metri quadri in zona Ropero. Il Comune di nuovo vorrebbe ottenere la zona in comodato d'uso, concedendo a Expo concluso l'edificabilità dei terreni. La Regione vorrebbe invece acquistare i terreni direttamente dalla proprietà, che è la famiglia Cabassi e la Fondazione Fiera. Torneremo su questo, dicevo, 349-238-6666 per i vostri sms. E allora parliamo della campagna francese in Italia, ma soprattutto di come si fa a difendere in maniera propria, in un'Europa con l'euro e con la libera circolazione dei capitali, l'italianità dei nostri gruppi industriali. I casi sono innumerevoli, si chiamano, l'ultimo è Parmalat chiaramente, ma si chiamano anche Groupama dentro Premafin, ricordavamo Bulgari che finisce in Louis Vuitton Moanessi, e la vicenda Edison. I francesi vorrebbero avere controllo complessivo su Edison, tagliando fuori, diciamo così, A2A, ossia le municipalizzate di Milano e Brescia. E questi non sono gli ultimi casi a cui assistiamo di una presenza francese fortissima. Bolloré ha dichiarato, Bolloré ha un ruolo fondamentale sia in Mediobanca che in Generali, ha fatto dichiarazioni di un certo rilievo, per usare un eufemismo, negli ultimi giorni. Insomma, sta capitando un po' una chiamata, qualcuno ricorderà Ludovico il Moro, insomma la chiamata dei francesi in Italia, perché noi restiamo forse un po' troppo l'un contro l'altro armati. Professor Romano Prodi, ex presidente del Consiglio, ex presidente della Commissione Europea, attualmente insegna al corso all'Università di Shanghai in Business Administration, che si chiama CHAPES, e poi insegna anche alla Brown University in America. Buonasera. Buonasera a lei. Allora, buonasera professor Prodi, le farei ascoltare, sono dati che lei conosce, ma non tutti i nostri ascoltatori, quello che è lo stato dell'arte delle partecipazioni francesi, perché di questo stiamo parlando, in Italia. Annunciata nel giorno delle celebrazioni per l'Unità d'Italia, l'intenzione dei francesi di Lactalis di muovere alla conquista d'Italia è stata la classica goccia che fa traboccare il vaso. Il risultato è stata la convocazione dell'ambasciatore e l'ingresso nella partita del governo, che varerà una normativa a difesa delle imprese strategiche del paese. Il vaso però va riempiendosi da tempo in virtù dello shopping a 360 gradi che grandi gruppi francesi hanno effettuato negli ultimi anni nel nostro paese. Solo due settimane fa era andata in porto l'operazione Bulgari, con lo storico marchio italiano della gioielleria finito sotto il controllo del colosso Louis Vuitton Moët Hennessy. Tuttora in corso invece la partita per Edison, secondo operatore energetico del paese, attualmente controllato da Electricité de France e A2A, con i francesi pronti a rafforzare la presa a scapito dei soci italiani. Sembrerebbe invece tramontata l'ipotesi di un ingresso del gruppo transalpino Groupama nel capitale di Fondiaria Sai. Il secondo gruppo assicurativo del paese in difficoltà a causa dei debiti della controllante Premafin sembra infatti aver trovato in Unicredit la sua ancora di salvezza. Restando nel campo bancario assicurativo, basta però risalire al 2006 per trovare il colpo grosso dei cugini d'Oltralpe. 5 anni fa, con un'operazione lampo, BNP Paribas conquistò infatti il 100% della BNL. Da non dimenticare che l'altro gigante del credito francese, Crédit Agricole, controlla Cariparma e Friuladria. Nella grande distribuzione, Carrefour ha assunto la proprietà dei supermercati GS nel 2000, mentre 4 anni più tardi, Auchan ha rilevato la catena SMA. Air France ha in mano il 25% di Alitalia e ha sempre mostrato interesse per il controllo della compagnia di bandiera. C'è poi un'importante presenza azionaria nei gangli vitali del nostro sistema finanziario, vale a dire Mediobanca e Generali. I soci francesi detengono complessivamente circa il 10% di Piazzetta Cuccia, primo azionista del Leone di Trieste, con il 13,4%. Piuttosto sparuta, viceversa, la pattuglia dei conquistatori italiani d'Oltralpe. Le partecipazioni rilevanti si contano infatti sulle dita di una mano. Tra queste, Ciment Française, integralmente posseduta da Italcementi, e Foncière de Région, gruppo immobiliare che fa capo per il 30% alla Delfin di Del Vecchio. Insomma, lo squilibrio, professor Romano Prodi, è palese, ma non è questo che mi preoccupa. Non so neanche se a me, a me un po' preoccupa. Ecco, allora veniamo a quello che preoccupa lei, perché lei è stato il grande autore della privatizzazione dell'IRI. Da sempre, citavo il fatto che lei insegna a Shanghai e negli Stati Uniti, non la si può accusare di ipernazionalismo. Ai tempi in cui era Presidente del Consiglio vi fu l'operazione importante Enel su Endesa, che doveva avere un corrispettivo poi saltato con Abertis su Autostrade. Per cui, insomma, lei è d'accordo con Tremonti, che poi sentiremo, insomma, che la situazione inizia a essere preoccupante, oppure è il libero mercato europeo bellezza, come si potrebbe dire? No, il libero mercato è il libero mercato, però deve essere libero. Voglio dire, qui a un dato punto ci sono delle fortissime asimmetrie. La Francia fa una politica industriale, non dimentichi che cosa ha fatto quando la Renault è voluta investire in Turchia, che l'hanno bloccata, gestisce una politica centralizzata in cui partecipano moltissimi attori francesi, cioè tutte le grandi imprese, ha una struttura industriale diversa dalla nostra, quindi io sono per il libero mercato, ma attenzione, ci vuole una similitudine di regole. E poi soprattutto, lei ha citato tanti esempi, no, della politica francese in Italia, ce ne sono di ancora più vecchi, il ferroviario, le telecomunicazioni, in cui poi quelle che sono divenute le filiali italiane non hanno più svolto alcun ruolo di ricerca, sono state trattate veramente come filiali, cioè in poche parole c'è una politica industriale francese volta all'interesse nazionale e c'è una politica invece in mancanza di politica industriale italiana, quindi c'è un'asimmetria che in qualche modo mi preoccupa. Naturalmente è chiaro, ci sono anche le nostre colpe, lei prima ha citato Bulgari, non è una scusa, non ho trovato altri italiani. Bulgari non era un'azienda che avesse dei problemi da doversi vendere, insomma, no? La sua struttura, una sua liquidità, una sua solidità, poteva benissimo avere ancora strategia di lungo periodo. Evidentemente questa debordare francese è accompagnato anche dalla voglia di molti nostri imprenditori di fuggire, o quantomeno la stanchezza di fare imprese. Poi evidentemente anche quello che diceva lei, gli uni e gli altri armati, no? L'Italia di oggi, colui che l'ha descritta meglio è sempre Dante, quando dice Monaldi e Filippeschi, Montecchi e Capelletti, Monaldi e Filippeschi, uomo senza cura, no? Dice non stanno senza guerra li vivi tuoi, l'un l'altro si rode di quel che è un muro ed una fossa serra. Cioè, sostanzialmente è un paese in cui non c'è da anni politica industriale, quando la si vuole ricostituire si hanno mille risse, mille problemi, però i francesi ce l'hanno e questo costituisce una simmetria. Quindi in qualche modo ricostituire una nostra politica industriale rimette in equilibrio la situazione. Ecco, mi scusi professor Prodi, però guardo anche i messaggi che ci sono, poi magari le faccio ascoltare anche cosa ci ha detto Francesco Trapani la settimana scorsa in merito all'offerta ricevuta. Quando un gruppo ti offre 45 volte il prezzo utile atteso, è tantissima roba ed è difficile, però lui dice io ho cercato di trovare, anzi vediamo una cosa, facciamo sentire subito Francesco Trapani di 10 giorni fa ai nostri microfoni, nemmeno una settimana fa ai nostri microfoni, proprio su questo tema, se aveva cercato di fare il polo italiano del lusso. Questi grandi gruppi che oggi hanno un ruolo molto più protagonista di quello che avevano 25 anni fa, ce l'avranno ancora di più fra 10 anni, perché il mercato a cui noi ci rivolgiamo è diventato gigantesco. Geograficamente ormai è articolatissimo, perché quando io ho cominciato a fare questo lavoro bisognava vincere su 5 mercati europei, quello americano e quello giapponese. Adesso invece devi stare in Corea e in Greater China, devi andare in India e in Brasile, devi vincere in Medio Oriente e in Russia, quindi sta diventando sempre di più un business grande, che poi alla fine si vince sì con la creatività e tutto il know-how del lusso e l'artigianato eccetera, ma anche con la finanza e la piattaforma organizzativa. Quindi secondo me questi fra 10 anni avranno un ruolo ancora più importante, e le aziende indipendenti o sono già oggi dei grandi colossi stellari oppure faranno una gran fatica, perché alla fine bisogna offsettare il problema di essere più piccoli, meno forti dal punto di vista organizzativo e dal punto di vista finanziario, con performance che siano assolutamente stellari, cioè c'è uno svantaggio, certo, che bisogna coprire. Quindi secondo lei il destino comunque dei marchi italiani, se non si uniranno, sarà quello di confluire nei grandi gruppi? Penso di sì, l'abbiamo già visto fare, insomma, marchi come i grandi marchi come Gucci e Bulgari. E questo era il ragionamento successivo di Francesco Trapani. Io ho provato a trovare con altri soggetti il po' del lusso, ma tutti volevano mantenere la quota di controllo. Dopodiché, ragazzi, la globalizzazione prevede le dimensioni, quindi mettiamocela via, o ci uniamo o se no sì, finiremo bene, comprati. Prego, professor Prodi. Io quando la Bulgaria è venduto ero in Cina, e guarda caso ero anche con gli uomini della Bulgaria. Ed erano entusiasti perché avevano aumentato del 60% il loro fatturato, voglio dire, non c'erano mica per il collo. Io so, ha perfettamente ragione Trapani nel futuro, ma lo prepari, aiuti a preparare il futuro. La verità è che gli hanno dato una somma talmente grande per cui lui ha venduto. Mi ricordo qualche anno fa, io sono di Reggio Emilia, la banca locale ebbe un'offerta da un'altra banca, io parlai con un azionista, dico ma non vendere localmente, dice no, figurati, erano quotate 100.000 lire allora le azioni, e il sabato dopo dice non vendo neanche se me lo dice la Madonna, il sabato dopo vende e questo mi risponde ma sa, la Madonna arrivava a 170.000, me ne hanno date 180. Allora se questa è la logica, però mi faccia fare, non lamentiamoci, mi faccia fare però l'avvocato, diciamo, della controparte, perché insomma l'economia è questa, se tu offri di più. Sì, ma infatti io non dico mica niente, io dico in questo caso, però non troviamo problemi di lunghissimo periodo, perché uno poteva dire, lei dice, parliamo delle cose come stanno, hanno offerto tanti soldi, quando arriva un'offerta a che appunto a cui non arriva neanche nostro signore, uno vende, ecco. Ma professor Prodi, un passaggio brevissimo di quello che ha detto il ministro Giulio Tremonti da Cernobbio sabato, dicendo vogliamo studiare la normativa che c'è all'estero, in Canada, per proteggere le nostre aziende. Studiamola, internet fu applicata, credo, contro Leni. Comunque c'è il mondo, stiamo facendo, mi hanno detto che c'è, devo studiarla, stiamo facendo shopping giuridico. Shopping giuridico non è male, mentre c'è chi fa shopping di imprese. Allora, ha ragione Tremonti a dire guardiamole le leggi che ci sono all'estero e tuteliamoci anche noi come fanno i francesi, oppure in realtà, professor Prodi, il problema è solo nostro? No, il problema è anche nostro, sia per la nostra struttura, frammentazione delle imprese, sia perché c'è una stanchezza in molti casi e c'è una paura sul futuro, per cui alla buona occasione, quando c'è una buona offerta, si vende. Però attenzione. Prendiamo il caso Edison ad esempio, o tanti altri casi simili. Noi abbiamo fatto delle privatizzazioni seguendo le regole imposte dall'Unione Europea, l'EDF e altre imprese francesi sono rimaste assolutamente monopolistiche col totale del mercato, vengono a fare shopping qui, allora in questi casi evidentemente un problema di protezione giuridica, di shopping giuridico, è un problema che si pone. Quindi ha ragione Tremonti in questo caso? Negli aspetti particolari, negli aspetti dell'energia ad esempio, negli aspetti in cui non sono state rispettate le simmetrie, evidentemente sì, perché se io approfitto del mio monopolio naturale nel mio paese, in cui non entra nessuno, per fare shopping all'estero, credo che in questo caso ci si debba difendere. In altri, come nel caso Bulgari, penso che non ci sia niente da fare, se lo vuol vendere, venda. Ecco, questa è la regola del buon senso e della serietà politica. Ecco, secondo lei il fatto che la Francia abbia di fatto guidato l'azione verso la Libia, anche da un punto di vista militare, i primi caccia erano francesi, sta a significare che l'espansionismo transalpino vuole prendere anche quella che era un rapporto privilegiato dell'Italia con la Libia? Faccio processo all'intenzione, certamente sto riflettendo molto, molto, molto sulle motivazioni di questa azione. Perché non la convince? Sto riflettendo molto. Dico un'ultima cosa, da questo punto di vista, cioè dal punto di vista, il problema è francese, cioè se fossero stati tedeschi, perché io ho la sensazione che si dica i francesi sono così protezionisti che è inaccettabile che vengano con le loro protezioni, il discorso che lei ha appena fatto, a comprare da noi. Se fosse stata un'altra impresa, non so, tedesca piuttosto che scandinava, lei avrebbe avuto minori perplessità o il tema vale comunque? No, il tema delle regole uguali vale comunque. Io credo che però ci sia stata molto più attenzione, una politica industriale molto più attiva e protezionistica da parte francese che da parte di altri paesi. Però una regola non può mica valere solo per la Francia. Il problema è di avere la simmetria rispetto agli altri paesi europei. Ecco, questo è quello che io assolutamente, assolutamente ritengo essere giusto. Perché non ho certamente detto nulla riguardo alla Banca Nazionale del Lavoro, hanno fatto un'operazione secondo le regole del mercato e quindi, ripeto, su Bulgari ho riflettuto e sono perfettamente d'accordo con il consigliere delegato sulle ragioni che ha addotte, però voglio dire c'era ancora molto tempo perché l'impresa aveva un'ottima performance, aveva un bel futuro, certamente se hanno fatto un'offerta che non si poteva rifiutare, anche in questo caso non c'è asimmetria se non di capacità finanziaria. Nel caso invece di una politica di governo che ti protegge perché tu ti espandi all'estero, qui bisogna prendere contromisure. Grazie, grazie a Romano Prodi che era appunto il nostro ospite e ripeto attualmente insegna sia a Shanghai che alla Brown University. Grazie professore. Grazie a lei e buonasera. Allora la borsa diciamo va bene in tutta Europa, va bene anche Milano, un po' meno rispetto a Parigi e Francoforte. La facciamo rapida perché vorrei poi in collegamento il numero uno della Campari che oggi ha pubblicato i dati e mi interessa anche per il ragionamento che facciamo con Prodi. Dunque Parmalat meno 5,15 e Fondiaria meno 3,76%, la faccio io oggi la borsa, così va. Se vi accontentate, Parmalat e Fondiaria, su Parmalat e Fondiaria in realtà ci sono soprattutto realizzi dopo i guadagni della scorsa settimana per Parmalat, adesso sì, in vista dell'assemblea e poi dopo la presentazione delle liste. Su Fondiaria Sai, anche lì aveva recuperato in due sedute, se non ricordo male, quasi l'8%, e visto che sembra vicino l'accordo con Unicredit per il riassetto finanziario del gruppo, si va a vendere dopo la crescita. Campari invece un po' di delusione per i dati, meno 1%, Enel Green Power meno 0,22%, ma Campari molto alla salita nei giorni scorsi. Chi va bene? Intesa San Paolo più 3,5%, Buzzi Unicem più 3,2%, ST Microelectronics più 3%, bene anche Telecom Italia più 2,25%, perché oggi tutto il settore delle telecomunicazioni è andato bene dopo che Deutsche Telekom ha venduto la controllata americana T-Mobile e l'ha venduta, come alcuni di voi già sanno, ad AT&T. Bene comunque i bancari, anche Popolare di Milano più 2,5%, Unicredit più 2,40%, c'è un recupero generale oggi a livello europeo dei titoli finanziari e Azimut più 2,30 appunto. Pirelli più 2,20, bene anche Tod's più 2,32%, qui vale la pena segnalare che tutto il settore del lusso oggi si è mosso bene, Tod's è la migliore nel settore a Milano. ST Microelectronics, alcuni di voi chiedono perché recupera, perché va perso sulla base dei timori giapponesi e oggi un recupero. Tra i titoli invece che hanno presentato i conti, Edison ha perso il 2,2%, sul risparmio anche di più, il 3,4%, l'utile è calato a 21 milioni, le svalutazioni sono state fatte per 407 milioni, i ricavi fanno più 18%, ma il risultato industriale perde il 7% e non verrà distribuito alcun dividendo agli azionisti. Ecco perché Edison perde in borsa. I migliori e peggiori in assoluto, oltre a Edison che abbiamo appena ricordato, c'è Parmalat appunto meno 5,51% in vista appunto dell'assemblea, e invece Deutsche Telekom più 11,90%, Rete Elite più 14,2%. Oggi conti anche di Campari, che vuol dire Apple, Lucinar, Zed, Pires, Riccadonna, Cinzano. Siamo in collegamento con il numero uno del gruppo, Bob Kunz-Concewitz. Buonasera. Buonasera. Allora, grazie. Innanzitutto, i dati di oggi. Abbiamo visto salire molto le vendite del 15%, se ho ben capito 1 miliardo e 160 milioni di euro, e anche l'utile più 14%, cioè 156 milioni, dividendo 0,06 euro per azione. A cosa è dovuto questo aumento nel 2010? Il fronte italiano o più il fronte internazionale? Dobbiamo dire che i risultati 2010 sono stati davvero positivi, le vendite sono cresciute da un 15% e l'utile netto da un 14%, e questo è un momento dove i nostri mercati rispettivi sono più o meno piatti. La nostra performance è una performance dovuta all'andamento molto positivo di tutti i nostri marchi che sono cresciuti attraverso, diciamo, quasi tutto il mondo. Noi abbiamo investito parecchio in marketing da anni, in pubblicità, anche durante il periodo della crisi non abbiamo staccato la spina, anzi abbiamo rinforzato anche la nostra struttura commerciale aprendo 8 nuove consorziate o affiliati Campari nel mondo negli ultimi 4 anni e adesso ne stiamo beneficiando di tutti questi investimenti, un business sano con dei marchi molto forti e dei marchi che si stanno espandendo a livello internazionale. Ma secondo lei può essere che con la crisi uno beva di più? Ma se andiamo a vedere i nostri mercati di riferimento, sono piatti. Dunque, quindi non è quello. Valore di volume non c'è. Noi stiamo incrementando di parecchio le nostre quote di mercato attraverso il mondo, grazie al successo dei nostri marchi, soprattutto aperitivi come Campari e Aperol, il Vermouth Cinzano, la Vodka Sky, Wild Turkey e anche il whisky Glen Grant. Ecco, su questo, tra l'altro, voi avete dei dati anche sui mercati cosiddetti emergenti, in realtà sono già ampiamente emersi, mi riferisco a Brasile, India e Cina, forse anche con la Russia all'interno? Sì, diciamo che nei BRIC noi abbiamo adesso delle realtà molto importanti, abbiamo il Brasile dove siamo leader del mercato, in Russia dove abbiamo un portafoglio molto forte di marchi e oggi abbiamo annunciato l'acquisizione della nostra piattaforma distributiva. Per quello che riguarda l'India, l'India è un mercato abbastanza chiuso per diciamo gli importati, dunque lì stiamo lavorando, ma diciamo che non è un'area di focus perché l'environment non è interessante. E in Cina abbiamo da 4 anni la Campari of China che sta crescendo in modo sostenuto a doppia cifra, ma chiaramente partendo da una base piccola. Un'ultima domanda che riguarda il tema che accompagna oggi questa puntata, e cioè insomma il tentativo di conquista francese di grandi gruppi, grandi marchi italiani, Parmalat è l'ultimo caso, ma c'è stato Bulgari, c'è in ballo la vicenda Fondiaria Assai e quant'altro. Allora, lei è straniero, la Campari è un gruppo, diciamo, a partecipazione prevalentemente italiana, ma con un fondo importante come Cedar Rock Capital, con marchi che sono italiani in alcuni casi, non tutti, ci mancherebbe, ma che hanno un mercato, come lei ricordava, assolutamente internazionale, non potrebbero vivere altrimenti. Le chiedo, lei è sensibile al tema dell'italianità, cioè del fatto che il marchio italiano venga controllato da società, da fondi italiani, oppure in un'Europa, in un mondo globalizzato, non è quello il punto, secondo lei? Lasciando stare la Campari, in questo momento le chiedo una domanda come manager, diciamo. Diciamo che l'Italian lifestyle è molto appealing, è qualcosa che si può esportare. Da un altro lato è chiaro che i nostri mercati si globalizzano e dunque anche società italiane di spunto come Campari devono internazionalizzarsi, è quello che abbiamo fatto nel tempo, ma allo stesso tempo abbiamo anche riportato in Italia dei marchi come Cinzano o anche Aperol che erano in mani straniere. Ma secondo lei, lasciando stare Campari, visto che lei appunto da straniero lavora in Italia e ha fatto un'operazione anche importante al contrario di portare in Italia marchi che erano andati all'estero, c'è una incapacità di alcuni settori italiani, il lusso, l'alimentare, di fare sistema, di fare massa critica, oppure in realtà così è solo nazionalismo, bisogna che i fondi e le partecipazioni possano muoversi liberamente, non è così importante la bandiera, ma diciamo come viene poi gestita l'azienda? Ah, io penso che questa è più una domanda da retorica di natura politica. Per quello che ci riguarda, noi siamo attori in tutto il mondo e stiamo riuscendo anche a mantenere la bandiera italiana molto alta anche in mercati dominati da altri giganti. Grazie al ministro delegato del gruppo Campari, Bob Kunz-Concewitz. Grazie, arrivederci. Vorrei però adesso affrontare un altro tema che si chiama di nuovo Expo. Di Expo parleremo anche la settimana prossima con il nuovo numero uno della società Expo 2015 SPA, Giuseppe Sala, che poco fa ha detto: malgrado l'assemblea dei soci non si sia nemmeno aperta e di conseguenza sia stata rinviata l'attesa ricapitalizzazione, la tenuta finanziaria della società non è a rischio. Non voglio fare il solito ottimista, serve realismo, ma la tenuta attuale dei conti non porta realisticamente problemi. La prossima assemblea è il 15 aprile e occorre che tutti mettano i soldi. Allora, che cosa è successo sull'Expo? Ve lo raccontiamo adesso in diretta. Come sempre 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, rinviata l'assemblea dei soci, oggi bisognava varare la ricapitalizzazione della società Expo 2015 e le varie quote. La regione è socio al 20% ed è già pronta a versare la sua quota. Il comune è bloccato dal bilancio ancora non approvato. Il governo attende che la situazione si sblocchi. E questa impasse, questo blocco, blocca anche il tema dei terreni. Bisogna comprare questi terreni, 1.000.000 di metri quadri, bisogna avere questi terreni. Il comune vuole averli in comodato d'uso per poi concederli a Expo, concedendoli dopo per l'edificabilità, mentre la regione vorrebbe acquistare dalla proprietà, la famiglia Cabassi e la Fondazione Fiera, i terreni stessi. Le varie quote, allora, praticamente la prima tranche sono 6,24 milioni per il Ministero dell'Economia, 720 mila euro per Regione e Comune, 360 mila euro per Provincia e Camera di Commercio. Poco fa ha parlato anche il Presidente della Regione Lombardia, ha detto, insomma, se qualcuno ha delle perplessità, parli. E il sindaco di Milano, Letizia Moratti, ha detto va bene, ma noi abbiamo già concordato la nuova assemblea con il Tesoro. Siamo in collegamento con il sottosegretario della regione che ha la delega sull'Expo e che avrebbe dovuto partecipare oggi per la regione all'assemblea che è saltata. Paolo Alli, buonasera, grazie. Buonasera. Allora, la regione Lombardia mi sembra quella che non ha già detto che è pronta a versare la sua quota. Lei ha capito perché tutto è saltato? Ce lo spieghi perlomeno. Sì, certo. Innanzitutto, per la verità, noi la quota l'abbiamo già versata. È vero. Io mi sono presentato regolarmente insieme al rappresentante della Camera di Commercio all'Assemblea e lì abbiamo appreso che appunto gli altri tre soci invece non erano presenti, quindi l'Assemblea è andata deserta. Noi appunto e la Camera di Commercio non avevamo motivi per non andare a questa Assemblea, per il fatto che appunto abbiamo già noi versato e la Camera di Commercio ha deliberato la relativa quota di contributo. Adesso abbiamo preso atto quindi che ci sono dei problemi che non mi pare siano di sostanza ma di natura tecnico-amministrativa da parte del Comune di Milano e del Ministero. Adesso aspettiamo questa nuova assemblea del 15 di aprile per vedere cosa succede. Cioè, mi faccia capire, sottosegretario Alli, lei è arrivato con il rappresentante della Camera di Commercio e non c'era nessuno? No, c'era regolarmente, c'era il consiglio di amministrazione al completo, la presidente Bracco che aveva convocato l'assemblea e come rappresentanti di soci eravamo soltanto la Camera di Commercio e voi. E noi. Allora, io non voglio tornare sulla polemica che ho avuto con il sindaco Moratti, cioè l'ha avuta lei veramente con me, io ho solo chiesto a suo tempo se il comune di Milano era pronto a versare i soldi, lei si era molto seccata, l'inaugurazione dell'Expo, l'abbiamo già fatta sentire questa polemica del sindaco Moratti con il sottoscritto, però lei mi dica una cosa, cioè, cosa vuol dire che il problema è formale, che il comune deve approvare il bilancio e poi i soldi ci saranno, perché qua in ballo c'è il 1.000.000 di metri quadri della zona Ropero, voi come regione vorreste acquistarli? Mi dica. Scusi, la ricapitalizzazione non c'entra direttamente con la vicenda dei terreni, evidentemente questa ricapitalizzazione serve per consentire il funzionamento ordinario della società. Noi appunto sulla questione terreni, invece, che ovviamente è un discorso di portata decisamente più ampia, abbiamo già espresso in passato le nostre posizioni. Devo parzialmente correggere quanto lei ha detto: noi, la regione non ha mai detto di acquistare quei terreni, noi abbiamo sempre proposto di fare una società mista con i privati per valorizzare insieme quest'area e quindi secondo un modello simile alla società di trasformazione urbana ben conosciuto in urbanistica, diciamo, perché ritenevamo e riteniamo ancora che questa sia una soluzione più semplice, migliore, che mette pubblico e privato in partnership, pubblico e privato che si dividono i rischi e opportunità di questa operazione. Gli altri soci alcuni mesi fa decisero di proseguire invece sulla strada della comodato d'uso e su questo siamo alle battute finali per capire se ci sono gli elementi per trovare con i privati l'accordo e quindi mandare avanti l'accordo di programma con la conseguente variante urbanistica. Allora mi dica una cosa, ripeto, noi avremo Giuseppe Sala nostro ospite martedì prossimo, però giustamente il numero uno dell'Expo getta acqua sul fuoco, dice va bene andiamo avanti, bisognerà però che entro il 15 aprile si approvi tutto, ma insomma per fare una sintesi estrema, abbiamo perso un anno per capire chi doveva essere il commissario, la Moratti voleva Glisenti, Tremonti era contrario, poi alla fine è stato Stanca. Poi Stanca dopo un anno se n'è andato ed è arrivato Sale e siamo a 2 anni. Adesso quanto è grave slittare sull'acquisizione di terreni? Cioè, lei teme che vi possa essere un problema di tempi a questo punto, oppure in realtà se il consiglio si fa il 15, vabbè, si è persa un'occasione oggi, ma insomma la si recupera fra 3 settimane, 4 quasi? Beh, anzitutto non è che tutto questo tempo sia andato perduto, perché la società ha lavorato, ha portato avanti i progetti, quindi diciamo si sono sviluppate tutta una serie di attività propedeutiche all'invio, diciamo, delle ruspe che inizieranno a realizzare le opere, quindi non è tempo perso. È chiaro che in questo momento dobbiamo dare una svolta decisiva e definitiva, perché il tempo comincia a farsi abbastanza breve. Secondo me ci sono ancora i margini, però dobbiamo per forza trovare la soluzione in tempi molto rapidi sul tema aree, perché evidentemente se la società non ha le aree a disposizione, le varianti urbanistiche approvate e la certezza di finanziamenti, evidentemente non può operare. Senta, il 15 aprile è una data deadline, è una data ultima o...? Il 15 aprile è una data in cui noi ci aspettiamo di aver risolto in modo definitivo queste scelte, che non vuol dire avere già tutti gli strumenti operativi, nel senso che se la soluzione sarà quella del comodato, bisognerà ovviamente aver definito con i privati tutte le condizioni economico-finanziarie di concambio, di indennizi reciproci, eccetera. Se la soluzione dovesse tornare ad essere un'altra, bisognerebbe attivare poi tutti i meccanismi, perché per esempio la famosa idea della società, della NewCo pubblico-privata è lì pronta ancora, nel senso che evidentemente il Consiglio regionale della Lombardia ancora a metà dell'anno scorso fece questa legge che prevede la possibilità per la Giunta di costituire questa società mista. Io in questo momento non è un'ipotesi sul tavolo, perché stiamo ancora approfondendo e finalizzando quella del comodato, però è un'ipotesi di riserva che potrebbe tornare utile se l'altra soluzione dovesse trovare qualche ulteriore impiccio. Io auguro non tanto all'Expo ma a tutta l'Italia, perché è un evento italiano, non solo lombardo milanese, che il 15 si chiuda questa ennesima vicenda. Grazie anche per la disponibilità e per la chiarezza, devo dire, al sottosegretario della Regione con delega all'Expo, Paolo Alli. Grazie a lei. Di nuovo in diretta, torniamo sul tema, perché ci sta particolarmente al cuore, dello shopping francese, che molti giudicano scorretto perché è fatto da aziende protette e da un paese che ha delle leggi molto forti per proteggersi dall'acquisizione straniera. Se ne è parlato su Sole 24 Ore in questi giorni, ma in particolar modo sabato, un fondo in prima pagina di Alessandro Paterotti, vice direttore del Sole 24 Ore. Alessandro, buonasera. Buonasera a voi. Riepilogo della puntata, come si dice in questi casi, Romano Prodi, inizio programma, un giudizio molto duro in chi è sempre stato a favore delle partecipazioni estero su Italia, Italia estero. Sentite la preoccupazione di Prodi. Libero mercato è libero mercato, però deve essere libero. Voglio dire, qui a un dato punto ci sono delle fortissime asimmetrie. La Francia fa una politica industriale, non dimentichi che cosa ha fatto quando la Renault è voluto investire in Turchia, che l'hanno bloccata, gestisce una politica centralizzata in cui partecipano moltissimi attori francesi, cioè tutte le grandi imprese, ha una struttura industriale diversa dalla nostra, quindi io sono per il libero mercato, ma attenzione, ci vuole una similitudine di regole. E poi soprattutto c'è una politica industriale francese volta all'interesse nazionale e c'è una politica invece in mancanza di politica industriale italiana, quindi c'è una simmetria che in qualche modo mi preoccupa. Naturalmente è chiaro, ci sono anche le nostre colpe. Lei prima ha citato Bulgari, non è una scusa, non ho trovato altri italiani. Bulgari non era un'azienda che avesse dei problemi da doversi vendere, insomma, no, ha una sua struttura, una sua liquidità, una sua solidità. Poteva benissimo avere ancora strategie di lungo periodo, evidentemente questa debordare francese è accompagnato anche dalla voglia di molti nostri imprenditori di fuggire, o quantomeno la stanchezza di fare imprese. E E allora Alessandro Platerotti, se mi permetti il paragone storico, Prodi dice sì, intanto c'è un problema perché loro sono molto protetti, hanno lo Stato dentro, hanno una legge restrittiva, e poi, come con Ludovico il Moro e Francesco I, siamo noi che li chiamiamo e anche noi abbiamo le nostre responsabilità. Tu hai scritto, tra l'altro Prodi poi ha dato ragione anche a Tremonti sull'idea di uno shopping normativo, legislativo, guardando al Canada per esempio, che ha una legge abbastanza forte su questo. Tu hai scritto un fondo, dicevo, sabato, che si intitola Così si può giocare ad armi pari. Intanto un commento su quello che hai appena sentito di Romano Prodi, e poi com'è che si può giocare ad armi pari, e se, così concludo le tre domande, se in realtà siamo anche noi che come sempre chiamiamo gli stranieri in aiuto. Ma io credo questo, lo spirito dell'articolo di fondo che ho scritto sabato e soprattutto lo spirito anche con cui la Confindustria ha reagito alle dichiarazioni di Tremonti, alla volontà di arrivare a una nuova definizione normativa che protegga alcuni settori definiti, che saranno definiti strategici, perché ancora non sappiamo quali sono i settori strategici in Italia, beh, questo è un dato di fatto. Però attenzione, deve essere ben chiaro che l'impresa non chiede protezione allo Stato. Lo spirito dell'impresa è l'iniziativa, è la libertà di scelta, è anche investire e acquistare all'estero. Diverso è però un paese come il nostro in cui, quando si chiede pari opportunità, si intendono due cose. Da un lato la pressione politica del governo italiano sugli altri governi, in particolare quello francese, affinché non attuino politiche che penalizzano gli investimenti altrui. E questo è un punto importante ed è compito del sistema politico. Però c'è anche un altro elemento. Le nostre imprese operano in un regime decisamente svantaggiato, interno, rispetto a quelle di altri paesi. Io mi riferisco in particolare a quelle che sono sempre state definite come le diseconomie, quelle che pagano le imprese ma pagano anche i cittadini. Quando la pubblica amministrazione è lenta, paga in ritardo, paga più tardi di qualunque altra pubblica amministrazione che esista al mondo, le imprese e i suoi fornitori. Quando il sistema di infrastrutture non funziona o ci vogliono decenni per realizzare anche un piccolo raccordo stradale, io non voglio poi ricordare la Salerno-Reggio Calabria, ma insomma ci sono degli esempi anche in Italia. L'Expo che abbiamo appena citato non è l'Expo. un gran allora esempio. Qual è il punto? Quando noi facciamo un invito al darmi pari, significa muoversi su due fronti, significa muoversi sul fronte internazionale affinché le nostre imprese non vengano penalizzate quando tentano di comprare all'estero, ma c'è anche un aspetto di tutto italiano che è quello, uno, di eliminare tutti quei lacci e lacciuoli e diseconomie che frenano e disincentivano l'imprenditore a continuare a fare il suo lavoro. Però ecco, con una particolarità. La particolarità è questa. Questa occasione in cui il ministro Tremonti ha detto decidiamo che cosa è importante per noi è storica. L'Italia finalmente dovrebbe porsi il problema di dire che cosa è importante per il prossimo ventennio, quali saranno i settori, quale sarà il nostro ruolo nella geografia internazionale economica e nella distribuzione internazionale del lavoro. Noi parliamo della Parmalat, ma io se ci sono delle aziende del settore, ad esempio, delle biotecnologie, della componentistica delle telecomunicazioni, ma anche della difesa, che sono ad altissima qualificazione, prodotti estremamente competitivi e operano sul mercato con successo. Vogliamo dire a queste imprese qual è il progetto di sviluppo di questo paese per loro? Questo significa politica industriale, è quello che sostanzialmente intendeva Prodi. Detto questo, non sono assolutamente d'accordo con rimproverare Bulgari se decide di vendere. Primo, perché stiamo parlando di gioielli e quindi non stiamo parlando di un settore, diciamo così, che strategico per il paese. Per alcune mogli. E detto questo, resta sempre il principio che se i nostri imprenditori si stancano di fare impresa è perché intorno a sé non vedono né altri operatori disposti ad affiancarli. Mm-hmm. Ricordiamo che prima di andare a trattare con i francesi, Bulgari aveva sondato alcuni grandi imprenditori italiani per vedere se c'erano le condizioni per una loro partnership. E ci ha detto Trapani proprio in diretta, insomma, io ho cercato di vedere, ma ognuno voleva mantenere il suo controllo. Anche noi ogni tanto siamo un po', no, causa dei nostri mali. Corrado Passa da Cernobbio sul ruolo che può avere Banca Intesa per fare operazioni di sistema. Noi, quando ci sono di mezzo aziende che sono importanti di per sé ma anche importanti per il sistema Italia e c'è la possibilità di fare operazioni valide industrialmente e di sistema, noi cerchiamo di esserci sempre. Sì. Mi sembra che in questo caso ci muoviamo come Italia, come sistema, c'è impresa, c'è industria, c'è credito, c'è il pubblico che se ne occupa, sono temi importanti, soprattutto in settori che condizionano altri settori, l'agricoltura, occupazione, distribuzione, aziende di trasformazione, presenza dell'Italia in giro per il mondo. È giusto che la politica se ne occupi, lo fa in tutti i paesi forti del mondo, e quindi vediamo con favore che ci sia questo interessamento. Poi le modalità di intervento, sarà lo stesso Tremonti probabilmente a dircelo più chiaramente, ma vedere in un caso, non è l'unico, non è il primo, non sarà l'ultimo, che ci si muove come sistema, è una sensazione piacevole. Non è successo assicurato, ma è la precondizione del successo. Alessandro Praterotti, 30 secondi per dirmi come finirà secondo te con Parmalat e se c'è anche un problema della nostra immagine all'estero. Velocissimi, Parmalat si sta cercando la soluzione, credo che sia ormai questione di giorni affinché si arrivi alla definizione di una, se non di una cordata, di una struttura di offerta alternativa nella gestione di Parmalat. Ricordiamo che Parmalat è una public company, non ha un singolo padrone, basta un 15% del capitale per esserne padrone. Come l'Actalis. I francesi con piccola spesa, 400 milioni, si sono quasi aggiudicati il controllo. Speriamo che gli italiani siano veloci nel strutturare un'offerta concorrente in modo da poter mantenere quantomeno questa azienda in Italia e cercare altre aggregazioni. I francesi, certo, quando gli vogliono soffiare le imprese, le fanno fondere, ricordiamolo. Certo. Ultima cosa, gli investitori esteri, è un momento molto delicato. Gli ultimi dati sulla raccolta dei fondi di private equity, quelli che comprano le imprese in Italia, le piccole e medie imprese, ebbene nel 2010, questo è un dato che è emerso oggi, su 2,2 miliardi di euro che sono stati raccolti per essere investiti sulle aziende italiane, sono scomparsi gli stranieri. Una volta erano il 40% dei capitali, 50% dei capitali veniva dall'estero, nel 2010 solo il 2%. Pochi stranieri brutti, potremmo dire con una battuta, senza offendere i francesi che abbiamo battuto nel rugby. Dobbiamo questo per ora mi basta. Grazie Alessandro Patriotti, vice direttore del Sole 24 Ore, da Sebastiano Berisoni, l'augurio di una buona serata, ci risentiamo domani alle 17 in poi.